autore Don Andrea Mardegan dell'Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Siamo arrivati a pagina 158 con questo titolo: Giuseppe morì per malattia improvvisa. A te la parola. Sì, allora questo capitoletto fa parte della testimonianza di Maria, il racconto di Maria riguardo a quel periodo grande, no, della permanenza a Nazareth dopo i 12 anni, dopo il ritrovamento al Tempio, che è l'unico episodio, come sappiamo bene, della vita nascosta di Gesù a Nazareth che il Vangelo ricorda, il Vangelo di Luca ricorda. E quindi questo lungo tempo di quasi circa 18 anni, per se, ecco, se pensiamo che Gesù abbia cominciato la vita pubblica verso i 30 anni, più o meno, ecco, e questo lungo periodo che, di cui il Vangelo non dice nulla se non una breve frase, ecco, no, stava loro sottomesso, ecco. E allora, in questo, Maria racconta, già abbiamo visto nell'ultima puntata Giuseppe che racconta questo tempo, e Maria racconta anche della morte di Giuseppe. No? Dice così: tornati a Nazareth dopo quei giorni di angoscia, cominciamo un lungo periodo di relativa pace e tranquillità, contemplando il mistero di questo figlio che cresceva sotto i nostri occhi in ogni aspetto. E questo cresceva, che è una frase che riecheggia anche il Vangelo di Luca, no? Cioè che cresceva e in sapienza, grazia, ecco, davanti a Dio e agli uomini. Non scomparvero mai del tutto i timori del futuro o del presente, no? Ci dobbiamo ricordare che Maria e Giuseppe hanno in mente anche la profezia di Simeone, no? Una spada ti trapasserà l'anima, e anche quello che è successo a Gerusalemme ha ravvivato questo timore anche che c'è dentro di loro, anche per tutta la vicenda della fuga in Egitto e del tentativo di uccidere Gesù da parte di Erode. Né si placarono mai del tutto le dicerie di paese. Quando Gesù fu più grande, presero a criticarlo perché non si sposava. È come suo padre, dicevano. E con il passare degli anni è peggio di suo padre. Noi in casa superavamo quelle critiche con il buon umore e passandoci sopra. E io tra me commento che non è facile a volte anche passare sopra con buon umore, e quindi se la famiglia di Nazareth faceva così come io mi immagino, possiamo cercare anche noi di imparare, ecco, di non dare troppo peso quindi a queste chiacchiere di paese che a volte sono anche fastidiose o dolorose per chi le subisce, no? Anche un po' comprendendo i nostri compaesani, no? E questo anche mi pare bello da parte di, per noi, no? Da imparare, mettendoci nella loro mentalità, lì si poteva capire, perché sappiamo bene che allora era, come anche adesso, ma ancora di più, il matrimonio era fondamentale, bisogna avere molti figli anche proprio per, come benedizione di Dio, il figlio era molto considerato, anche noi lo possiamo considerare così giustamente, ma per quei tempi ancora di più era considerato una benedizione di Dio, e quindi ci si sposava presto, e anche perché poi si moriva anche prima, no? La vita durava anche un po' di meno, c'erano malattie che non si potevano curare, quindi e in quella cultura senz'altro anche l'ipotesi di poter dare vita a colui che sarebbe stato il Messia, no? Anche nel popolo Israele. Quindi Maria dice: mettendoci nella loro mentalità lì si poteva capire, ecco, se arrivavano proposte di matrimonio noi le declinavamo adducendo qualche scusa. Quando dopo il battesimo di Gesù al Giordano fui invitata alle nozze di Cana, paese vicino a Nazareth, come sa chi è stato in Terra Santa, insistetti con Gesù perché venisse con i suoi discepoli, anche per far capire che non aveva nulla contro il matrimonio, anzi era proprio contento per i suoi amici e conoscenti e per far intravedere che aveva un gruppo di discepoli e quindi per adesso aveva altro da fare che sposarsi. Ecco, quando si legge il Vangelo di Giovanni, anche questo racconto che io faccio deriva anche un po' da una lettura del Vangelo di Giovanni, nel quale, quando si parla delle nozze di Cana, l'Evangelista cita per prima Maria presente, e poi dopo dice, e poi era presente anche Gesù con i suoi discepoli. Per cui, da questa priorità di Maria e quel testo, si può anche pensare capelli neri, un velo fermato sul capo con una corona di fiori bianchi, l'abito cinto sotto il seno bianco. Un sacerdote sigillò l'unione con la coppa dell'alleanza piena di vino. Ebbi l'intuizione che quel vino sarebbe stato il simbolo della nuova alleanza tra Dio e il suo popolo attraverso il sacrificio di mio figlio. Per questo, quando mi accorsi che proprio il vino era finito, sentii che dovevo chiedere a Gesù di anticipare l'ora dei suoi segni. Che meraviglia fu quella sovrabbondanza di grazia e di vino. Ci ricordiamo bene che quelle anfore di pietra contenevano più di 600 litri, e quindi 600 litri di vino sono proprio di vino buonissimo, sono proprio segno della sovrabbondanza del dono di Dio, no? E anche della benedizione di Dio sul matrimonio e sulla famiglia. A Nazareth si viveva con un po' di fatica, insieme facevamo anche tante cose belle, tanta amicizia, tanta misericordia con i bisognosi. Una volta arrivò un samaritano con un ferito grave, nessuno lo accoglieva, lo ospitammo in casa, ci diede denaro e assicurò che sarebbe ripassato. Curammo quel ferito che poi si mise ad aiutare Giuseppe e Gesù nel loro lavoro. I nazareni ebbero da ridire, ma passammo oltre. Gesù però se ne ricordò e, trasformando un po' la vicenda, ne parlò a quel dottore della legge che voleva sapere chi è il prossimo da amare. Questa evidentemente è tutta fantasia mia, e d'altra parte le parabole di Gesù, che sono un capolavoro di narrazione, di episodi che rimangono nel tempo, anche che possono essere capiti da tutte le culture, e ci immaginiamo che Gesù prenda qualche episodio che è accaduto, no? Che, di cui lui ha saputo, di cui è stato anche protagonista, o comunque ha sentito raccontare, o la cronaca del tempo raccontava, e quindi penso che si possa immaginare una cosa di questo tipo, cioè un episodio familiare che poi lui fa diventare insegnamento per tutti, no? Gesù sentiva il desiderio di manifestarsi, ma sapeva che non era ancora la sua ora. Ecco, la madre che ma conosce perfettamente, o perlomeno conosce in gran parte, ecco, diciamo così, i sentimenti del figlio, no? Gli diceva che quel lavoro, quella vita normale e serena con me e con Giuseppe, erano la preparazione giusta per creare quella famiglia futura che sarebbe stata di quanti avessero creduto alla sua parola. No? Pensiamo a, ecco, la chiesa che Gesù aveva in mente, aveva nel cuore, no? Insieme delle persone che credono in lui, di quelli che sono chiamati da Dio a partecipare alla vita divina attraverso Cristo, e con la Chiesa che in fondo ha la dimensione di una famiglia, no? E che Gesù ecco, quindi consola sua madre, la conforta, il suo padre, Giuseppe, dicendo questa è la base, no? La Chiesa sarà, come dire, un allargamento di questa famiglia di Nazareth, no? Diceva: quella famiglia, mamma, sarà la nostra famiglia che si amplia e che accoglierà gente di ogni razza, di ogni popolo, di ogni cultura. Tu sarai madre di tutti e Giuseppe sarà padre. E questa è una cosa che noi nella Chiesa, ecco, consideriamo madre della Chiesa, Dio madre della Chiesa, e Giuseppe è padre, no? Di tutti noi. E quindi mi immagino che Gesù, ecco, per consolare i suoi genitori anche delle fatiche, no? Questa storia che è bellissima, però allo stesso tempo, come ho cercato di esprimere in questo libro, come tanti autori e ovviamente tante persone che leggono il Vangelo, che sanno e si accorgono, è una vita anche faticosa, no? Perché è dura e, ecco, sempre così un po' con il timore del pericolo dietro l'angolo, no? Ecco, Maria racconta di Gesù, no? Era innamorato della vita umana, del lavoro, della famiglia, dei bambini, dell'amore dell'uomo e della donna, del pensiero e dell'arte, di tutto il creato. Mi confidava che, d'accordo con il Padre e lo Spirito Santo, aveva voluto fare l'esperienza di essere creatura, il corpo che non avrebbe più abbandonato. Questa è una verità della nostra fede stupenda, no? Che Dio si è fatto uomo e il suo essere è uomo, e oltre che Dio, il figlio di Dio, che sarà per sempre, ma non è una cosa di donna avrebbe potuto comprendere che la vita sulla terra, anche la più normale, può essere vissuta nell'amore di Dio, perché Dio l'ha vissuta così, nell'amore dell'uomo. E aveva, ecco, questa è, secondo me, ecco, io devo, l'ho già detto anche in questa trasmissione, questa intuizione sono di un gran debitore di Emilia Scrivà, che aveva avuto questa intuizione sulla vita dei 30 anni nascosti di Gesù di Nazareth come modello della vita normale di ogni uomo, no? Che per questo, se Dio ha vissuto una vita come la nostra, ed è per questo che il Vangelo non ne parla, perché così ciascuno si può identificare anche con circostanze diverse, allora noi possiamo vivere la nostra vita normale, ordinaria, fatta di tante piccole cose, di gioie, di dolori, di fatiche, di riposo, e viverla insieme con Dio e unendola alla sua redenzione, no? Mettendola nella messa e facendo in modo che la nostra vita cooperi al compito della redenzione che il Signore è venuto a portare sulla terra. Così ogni uomo e ogni donna avrebbe potuto comprendere che la vita sulla terra, anche la più normale, può essere vissuta nell'amore di Dio, perché l'ha vissuta così l'amore dell'uomo. Aveva voluto fare l'esperienza della povertà, del sudore del lavoro, dell'angoscia, dell'esule e del fuggitivo, dell'amarezza, dell'incomprensione e dell'odio degli uomini, e sapeva che quelle cose erano solo un assaggio rispetto a ciò che lo aspettava, dare la vita per la salvezza del mondo. Ma aveva anche voluto fare l'esperienza dell'amore di una madre, di un padre, degli amici, della bellezza del bene e del lavoro ben fatto, della gioia della creazione e della città degli uomini. Ecco, mi viene in mente a proposito di questo lavoro ben fatto, no? Che sempre ricordo un'omelia, penso che sia quella su San Giuseppe, di San José María Escrivá, che forse un'altra, in cui lui si cita un Vangelo apocrifo che immagina Gesù che fa miracoli anche da bambino, che sistema, che so, quell'asse del falegname che non ha la misura giusta, e lui dice no, secondo me non è così, cioè Gesù e anche Giuseppe hanno lavorato con precisione umana, cioè non hanno avuto bisogno del miracolo per sistemare il lavoro, ma era proprio una virtù che loro coltivavano. Bene. Giuseppe morì per malattia improvvisa, forse un freddo imprevisto lo sorprese sudato di ritorno dal lavoro e lo assalirono poi febbri molto alte da cui non si riprese più. Devo dire che l'immaginazione di questo tipo di malattia di Giuseppe mi è venuta cioè avevo nella mente il racconto che Don Bosco fa della morte di suo padre, no? Che era giovane e tornava dai campi tutto sudato, scese in cantina, prese una broncopolmonite che fu per lui fulminata. Ecco, cioè avevo questo tipo di racconto che ho utilizzato per immaginarmi la morte di Giuseppe. Giuseppe credette a Gesù senza avergli visto fare alcun miracolo, ecco, e ripeto quello, cioè ricordo quello che ho detto anche prima. Gesù soffrì molto di non averlo guarito, come qualche tempo dopo invece avrebbe fatto con la suocera di Pietro solo prendendola per mano, di non avergli ridato la vita come alla figlia di Gairo, ricordate, non la dodicenne, e al figlio della vedova di Nain, no? Che stava andando verso la sepoltura e lui l'ha fatto risorgere, a Lazzaro di Betania. In quei momenti si ricordò sempre di Giuseppe e offrì al padre la sua obbedienza di Nazareth, cioè evidentemente non era nei programmi, nei piani, nei progetti di Dio Padre che Giuseppe appunto guarisse, no? E quindi Gesù non ha dato perché avrebbe potuto perfettamente farlo anche con lui, non ha fatto questo gesto di miracolo con lui, no? Mio figlio, d'accordo con il Padre e lo Spirito Santo, non voleva, e così cerco di dare una spiegazione di questa spiegazione, secondo me, di questo disegno del Padre, non voleva che la sua vita umana fosse o potesse essere vista come una vita speciale e protetta dal dolore che ogni uomo vive. E Gesù sapeva che avrebbe incontrato la morte prima di me e che io lo avrei aiutato a morire, cioè avrebbe avuto così in un certo senso il privilegio di poter morire con la madre accanto, no? Per questo scelse di sperimentare come uomo il dolore della perdita del padre e volle che sua madre provasse il dolore della vedovanza. Ecco, in qualche modo Gesù appunto prende la nostra vita umana anche con tanti dolori, per esempio quello della morte del padre e per la madre del dolore della vedovanza, no? E quindi una vita autentica la sua, non è la vita di un supereroe a cui va tutto bene, questi eroi diciamo dei fumetti o dei film, no? Che a cui gli va tutto bene, perché non è questa la vita nostra, no? E Gesù prende con sé proprio la nostra vita. Non voleva che alla sua vita, alla sua famiglia, mancasse questa esperienza di dolore così frequente nella storia degli uomini, nella morte di un genitore. Gesù, con la sua sensibilità straordinaria e il suo amore immenso per il padre, soffrì in modo indicibile per la sua morte. Eravamo accanto a lui a curarlo, a dirgli la nostra gratitudine per tutti quegli anni di vita, di lavoro, di amore, a stringergli le mani, io e Gesù. Giuseppe, guardando Gesù e me, con le sue ultime forze disse a lui: ecco tua madre, e a me, ecco tuo figlio. Ecco, questa è assolutamente un'immaginazione mia, ma è un po' come, poi dopo non lo ridico più avanti nel capitolo sulla Pasqua di Gesù, ma è un po' come un'altra presenza di Giuseppe poi quando Gesù sulla croce dice queste cose a sua madre, ovviamente con tutto un altro significato. Però è comprensibile che in quell'epoca in cui quando muore un padre, muore il marito, il padre, allora affida il figlio alla madre e la madre al figlio, che si possono sostenere a vicenda anche quando lui non ci sarà. Come posso spiegare, dice Maria, quanto soffrì per la morte di Giuseppe? Era il mio sostegno, con lui proteggevamo Gesù. La mia sofferenza nasceva dal timore di non riuscire più a proteggere Gesù come prima e da non sentirmi più protetto da Giuseppe. Mi mancava la terra sotto i piedi. Giuseppe era la mia ancora nei porti del mondo dove eravamo approdati, portati dalle tempeste della vita. E, ecco, in questa breve frase ho voluto esprimere un po' il dolore profondissimo della vedovanza che tante donne provano nella loro vita. E quindi anche Maria l'ha provato davvero e non... Avevo la percezione che per me cominciasse una nuova fase della vita e della maternità, soprattutto quando Gesù, prima delle nozze di Cana, cominciò a parlarmi del suo progetto di partire. Sentii un dolore fortissimo, non potevo più proteggerlo, dovevo affidarlo di nuovo completamente al padre. Cambiava il mio destino di madre, cambiava il modo in cui dovevo stargli vicino. Gesù mi disse chiaramente che ora sarebbe stato lui a proteggere me, che avrebbe preso il posto di Giuseppe. Dio mi diede la forza di fare questo scatto nel modo di vivere la mia maternità e per questo durante le nozze di Cana accelerai l'inizio della sua vita pubblica. Ero pronta, lo avrei seguito dappertutto, non c'era più motivo per rinviare. Io dentro di me penso che Maria sia stata più presente di quello che a volte pensiamo anche in tutta la sua vita pubblica, vabbè, quindi lo dico così. Nella mia vita Dio mi ha dato tanto, tanto, tanto, ma mi ha tolto tutto, tutto, tutto, e io l'ho amato, amato, amato tanto. La morte di Giuseppe fu una preparazione alla perdita di tutto. Piango anche adesso le mie lacrime mentre vi apro il mio cuore qui nella pace del cielo. Mi consola sapere che Dio non ne dimentica mai nessuna delle lacrime. E qui cito il Salmo 56, i passi del mio vagare tu li hai contati. Nel tuo otre raccogli le mie lacrime, non sono forse scritte nel tuo libro? Sono parole della scrittura che sempre possono consolare chi piange, nel senso che il Signore ci sta dicendo che non ne dimentica neanche una. D'altra parte, il fatto che esista pianto anche nella misteriosamente, anche nella vita eterna, nel senso che c'è una infinita gioia, però noi quando vediamo appunto Maria a volte fa questi miracoli di fare piangere alcune delle sue statue, ci sono, ecco, no, penso la Siracusa, riconosciuta nella Chiesa, no, situazioni, e penso che, ecco, la sensibilità, il grande amore che c'è in cielo, includa anche una capacità di soffrire per noi e di starci vicino nella sofferenza. Mi consola immensamente l'amore dei miei figli che vivono e lottano sulla terra. Abbiate la certezza che chi mi consola riceverà la consolazione, no? A me piace vedere appunto anche in questo rapporto soprannaturale l'immensa elevatezza di Maria senza peccato e Madre di Dio e che è mediatrice di tutte le grazie. tempo è proprio mamma, è proprio, insomma, è proprio donna, è proprio, e quindi anche lei ha bisogno di consolazione. Quando si vede che, no, piange, ecco, desidera da noi consolazione e ci assicura che, insomma, che saremo anche noi molto consolati da lei. Ecco, qui bello, conclude questo capitolo, ecco, sulla seconda parte della vita di Nazareth dopo... E poi fai alla fine due capitoli su San Giuseppe. Sì, perché alla fine io ho voluto aggiungere, in fondo perché Giuseppe muore, però ho voluto dire, beh, Giuseppe comunque in qualche modo è presente nella vita pubblica di Gesù, e ho fatto un breve capitolo. Io vedo che sto rileggendo il mio libro, che alla fine i capitoli sono un po' più rapidi, anche perché stavo... l'editrice mi aveva dato un limite di caratteri, di ampiezza, invece io stavo uscendo, ho cercato di essere breve. Quindi Giuseppe nella vita pubblica di Gesù e poi Giuseppe nel mistero pasquale di Gesù, cioè ovviamente è una presenza spirituale, è una presenza nel ricordo di Maria di Gesù, è una presenza mistica, diciamo così, però penso che, ecco, cerco di mettere in evidenza come è presente Gesù, Giuseppe, scusate, nella vita pubblica di Gesù, e in modo particolare nella passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo e assunzione di Maria. Quindi in questo modo concludo il libro, perché certo spesso i libri su Giuseppe si concludono prima, no? Perché poi dopo non ci sono notizie, invece a me è piaciuto comunque mettere in evidenza, e questo lo vedremo le prossime volte, che Giuseppe è presente nel cuore di Gesù, nel cuore di Maria, nelle parole che dice Gesù, no? Perché tante le ha imparate da Giuseppe da bambino o da ragazzo, e poi è presente anche in qualche modo quando Gesù conclude la sua vita con... Benissimo, questo libro è un vero capolavoro, lo ritengo ispirato, e ispirato anche, oltre che dallo Spirito Santo, anche dal tuo fondatore, che è Giuseppe, Giuseppe Maria. Giuseppe Maria, si chiama Giuseppe Maria. Sì. Poi forse rispecchia un po' la sua predicazione, se ho capito bene. Sì, assolutamente sì, soprattutto questa attenzione sia alla vita di famiglia, della famiglia di Nazareth, perché hanno dato sempre molto. Certo, allora una bella benedizione su tutti gli ascoltatori, in attesa poi di riprendere appunto questi ultimi due capitoli su San Giuseppe. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'intercessione di Giuseppe e di Maria, e di San José Maria, e scenda su tutti voi e rimanga sempre sui vostri cari e su tutte le vostre intenzioni di preghiera. Amen. Grazie infinite, Don Andrea. Ci risentiamo al più presto per continuare questo magnifico discorso. Benissimo. A presto. Ciao. A presto. Ciao, grazie. Pronto, Emanuele? Pronto, buonasera.